Direi che il tema della sua del libro, intanto noi, no? Quindi in questo senso non c'è imbarazzo. Poi mi pare una bella occasione, io l'ho detto soltanto oggi, mi sono sentito che la cosa è avvenuta, che questo seminario si tiene l'indomani, mi pare, no? Quel giorno sempre ieri stato nella programmazione del risultato. Di dirmi gli auguri che avrà ricevuto e di considerare un buon augurio che discutiamo con lui, tanto più che entra in un gruppo con cui mi è capitato di lavorare molto in questi ultimi tempi, perché occuparmi di un progetto di legge popolare, di iniziativa popolare, sul rifiuto della guerra, articolo 11 di Costituzione, un tentativo di dare attuazione in tanti anni a norme di tipo garantista. Questo articolo della Costituzione che oggi purtroppo nel clima di guerre diffuse terribilmente attuale che ho avuto con parecchi parlamentari del gruppo in cui Paolo si è iscritto, quando è stato eletto in cui si è iscritto, con tanti intensi diciamo di lavoro. Discussione. discussione, il ragionamento era intracciabile anche nell'Italia repubblicana. Per esempio, una decina d'anni fa, se lo ricordate, c'è stata una discussione sul giuramento dei professori e degli insegnanti della scuola media superiore, dell'università, invece sarebbero essere già esonerati dal proprio di giurare da 45, tutta una tradizione del resto. Ed è significativo che questa discussione però che è stata sì un po' fuoco rapido, sia rapidamente terminata con la soppressione del giuramento per questi che pure sono dipendenti dello Stato che in questa veste li hanno ottenuti, erano ritenuti ancora giuramenti. Però insomma non direi che ci siano stati in base. L'Italia repubblicana episodi caldi di partecipazione al problema. Se si prescinde forse da qualcosa al momento delle origini, dal trapasso tra monarchia e repubblica. Si può addirittura pensare appunto che nella sensazione collettiva ci sia una sorta di rilevanza. In realtà, se superiamo le prime apparenze, dobbiamo dire che appunto forse solo di apparenza si tratta di una sorta di crescenza nell'attenzione. Intanto perché il giuramento è presente nel nostro ordinamento costituzionale, è presente in maniera molteplice, intanto è presente nel testo della Costituzione. Due volte prescritto per le più alte cariche dello Stato, l'articolo 91 del Presidente della Repubblica, l'articolo 93 per il Presidente del Consiglio dei Ministri, a cui bisogna aggiungere, credo, a livello di norme costituzionali, le norme dei cinque statuti speciali, mi pare di tutte e cinque. C'è poi un'altra norma più generale della Costituzione, che è l'articolo 54, che non prescrive il giuramento, ma lo rende prescrivibile a discrezionalità della legge, a presidio dell'esercizio di funzioni pubbliche, che la Costituzione dispone che devono essere svolte con disciplina di onore, e diciamo a rincalzo, a rafforzamento o a garanzia di questo. La legge può richiedere il giuramento. Sulla base di questa norma, o semplicemente facendo sopravvivere norme precedenti, che però devono essere coperte da questa norma, coperte nel senso che qualche fondamento costituzionale, un obbligo solenne di questo tipo va approvato, insomma, non potrebbe essere introdotto liberamente dalla legge. Ci sono tante disposizioni di legge che prescrivono giuramenti, tanto che diciamo forse uno di noi che siamo qui presenti ha giurato qualche volta, cioè è una situazione abbastanza generalizzata, nel senso che adesso senza fare un elenco completo, mi sono seduti per legge i magistrati, tutti gli ordini, però non curiosamente i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, sono delle poche cariche delicati, importanti, esenti da questo obbligo. Insomma, adesso vediamo questa discussione un po' forse poco interessante. I magistrati, i dipendenti dello Stato e degli enti locali, quindi i civili dello Stato e degli enti locali, i militari. Appartenete alle forze armate, poi il sindaco e il presidente della provincia, non invece, questa è una curiosa anomalia, gli assessori, i membri delle giunte provinciali e comunali, né i consiglieri provinciali e comunali. Ancora più frastagliata la situazione regionale, perché abbiamo visto che sono tenuti consiglieri delle regioni speciali, mentre non so se sono informato, se sono informato ad essere a precisione su questo punto, perché appunto qui c'è una difficoltà a chiarirlo, ma le norme sono molto incerte per quanto riguarda i consiglieri delle altre regioni, e nel senso che alcuni statuti hanno teso addirittura a resettarli, stabilendo che entrano in discussione immediatamente con la proclamazione, questo volendo esplicitamente esentare un ragionamento. In ogni caso non sono tenuti i presidenti delle giunte, eppure avrebbero una qualità analoga a quella dei sindaci, analoga e superiore in qualche modo, insomma analoga come membri degli esecutivi, potete toccare ai sindaci e ai presidenti delle province. Poi ci sono altri soggetti tenuti che sono, va bene, gli estranei che entrano nell'amministrazione della giustizia, che sono giurati, che non ci sono guardati. Poi va bene, per uno forse viene tenuto di solito un prima subito, anche se è ragione un po' avere. Allora qui è concessa la cittadinanza italiana con decreto del capo dello Stato, quelli che la acquisiscono automaticamente. Ecco, vabbè, questo per dire che ognuno di noi poi, infatti il giuramento che abbiamo fatto, la laurea all'Università Cattolica, ha probabilmente, trovandosi in qualcuna di queste qualità, anche procuratori, per esempio, che abbiamo giurato come procuratori legali, ecco, nelle quindi di alcune professioni, ma soltanto di alcune, notai, per i medici si discute, ma insomma non è una cosa che discute dell'introduzione. Va bene, quindi diciamo che in realtà prevale davvero un po' la vita pubblica. Non parlo evidentemente dei giuramenti di altra natura, che sono quelli che avvengono nel processo per fini processuali, processo civile o penale. E poi se andiamo a vedere l'origine, tutto questo, l'origine nel senso fondamentale, anche se la maggior parte di questi giuramenti sono precedenti dell'origine storica. Il fondamento nell'Assemblea Costituente, insomma, vediamo che il tema, non avendo avuto, mi pare di poter dire, un rilievo potente, insomma, un rilievo limitato, però, insomma, è stato discusso soprattutto in relazione al giuramento dei deputati e dei senatori, i quali rientrano, sono anzi più importanti, tra i soggetti che oggi non giurano. Infatti Paolo è entrato in vigore ieri senza giurare, è già in carica ieri senza giurare, non giurano, mentre giuravano nell'ordinamento dello statuto latino, e non giurano perché la Costituente ha respinto esplicitamente una norma che proponeva questo ragionamento, che era stata proposta. C'era stato, se sconteggio bene la sequenza, c'erano state proposte contrastanti delle due sottocommissioni. E la seconda, una aveva concluso per il sì, l'altra per il no. In questo contrasto la Commissione dei 75 non aveva proposto nel progetto di Costituzione una norma che riguardasse il giuramento dei deputati e dei senatori, mentre aveva inserito le norme sul giuramento del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo. In questa situazione però in Assemblea la cosa fu ridiscussa, perché votati sotto una forma che qui non interessa, di rinvio a quando la questione sarebbe stata discussa per il Presidente della Repubblica e i membri del governo, si mostrò favorevole a che i deputati e i senatori fossero trattati come quegli altri, cioè se giurano il Presidente e i membri del governo non si vede, diciamo, perché non devono giurare i deputati e i senatori. Forse le cose più precise nel senso di introdurre il giuramento le disse allora con la verità della propria Tosato, anche lui, però prevalse dopo la discussione in cui alcuni dissero, soprattutto da destra, che non aveva senso che giurassero coloro che rappresentavano il popolo, e questo era come mettere un vincolo al popolo. Perché la destra? Probabilmente perché in realtà la questione che suggestiva a tutti era che non si voleva il giuramento dei monarchici alla Repubblica. Comunque sia, queste cose ci sono state altre anche favorevoli, per esempio il russo, il comunista sembrava favorevole, alla fine si votò e fu respinto. Nonostante questo, vari costituzionalisti sono del parere che la legge lo potrebbe introdurre, però la cosa è dubbia. Il giuramento del senatore potrebbe essere introdotto sulla base del 54, secondo lui. Quello che emerge, però, è che al di là di questo problema particolare e di questa giustificazione particolare, l'Assemblea Costituente in qualche modo ha fatto propria nel fatto che i rappresentanti diretti della sovranità popolare non devono giurare come si giura dei cittadini in una società democratica. Questo era preciso, che i cittadini non fossero chiamati a giurare. Invece, nonostante questo, la Costituente dimostra tutto sommato di dare importanza, valore al giuramento, perché nessuno dubitò che dovessero giurare il Presidente della Repubblica e i membri del governo, che queste norme passarono facilmente, e perché fu introdotta la norma generale dell'articolo 54, che demanda, in connessione con dovere di fedeltà, soprattutto con dovere di fedeltà, dovere fare guardare i cittadini, allora di no. Però, dal dovere di fedeltà poi si specifica il dovere di svolgere con disciplina della parte d'onore le funzioni pubbliche, e per costoro è reso possibile alla legge di introdurre il giuramento. Per cui mi pare abbastanza giustificato il dire, con uno degli ultimi autori di voci sull'argomento, che è stato giudice costituzionale anche se ha finito felicemente la sua carriera, Giuseppe Ferrari, che per la Costituente il giuramento aveva ebbe un valore notevole, e comunque lo ha la Costituzione, nel senso che la Costituzione ne fa un istituto dotato di notevoli potenzialità generali. Allora, in questa situazione, abbiamo forse due casi in cui un istituto che ha nel sistema, tutto sommato, una presenza, per usare parlare del valore, efficace, questa può essere sovradimensionata, però ha una presenza rilevante, non corrisponde poi dello spirito pubblico, perché così prima che in quello ufficiale una particolare sensibilità. Una cosa che mi ha incuriosito è che, così cominciamo a passare anche al terreno storico, che nell'enciclopedia del diritto manca una voce giuramento storia del diritto, mentre c'è un valorissimo digesto e c'è la voce giuramento ovviamente del diritto amministrativo e del diritto costituzionale attuale. Anche questo potrebbe essere, evidentemente in questo caso, risultato un po' accordo direzionale con l'enciclopedia, avere addirittura fatto con relazione, questa sì, senz'altro criticabile, potrebbe averlo svalutato anche un istituto storico, che sicuramente il libro di prova dimostra non è neanche lontanamente pensabile. Allora io direi che, in un certo senso, paradossalmente, il valore attuale dell'opera di Prodi sta nel contrario del solito. Mentre di solito diciamo che hanno un valore anche per le nostre discussioni attuali, che sono impegnate nella realtà di oggi, con le opere storiche che partono da problemi di oggi per ripercorrerne, ritrovarne le radici storiche, così spiegare, tutte le potenzialità che ha la storia, anche un problema sentito attualmente qui abbiamo il contrario, abbiamo in un certo senso che un'opera di storico ci richiama a scoprire un valore che sembra invece assente dalla nostra coscienza attuale. Dico questo, tra l'altro, avendo bene consapevolezza che Paolo Prodi non è certo degli storici eruditi che partono da, come dire, da convenienze o di tipo accademico o di tipo semplicemente appunto interne alla disciplina, interne soltanto interne alla disciplina di cui si occupa, ma al contrario, questo si contesta naturalmente della premessa, parte sempre da suggestioni del presente, proprio da quella volontà di capire, di confrontarsi con i problemi del presente, ma anche del futuro, che del resto muovono in genere i migliori fra i più sensibili fra gli storici, ma ce lo dice, ce lo racconta lui stesso, per lui è stato proprio il ripercorrere un problema che viene profondamente radicato nella sua esperienza, nella nostra esperienza di oggi. Allora il valore potrebbe essere questo, potrebbe darci un'esperienza di cui non siamo consapevoli, di cui nella una certa irrilevanza che nella sensibilità comune a cui confiniamo il nostro istituto, e invece ci sbagliamo, perché in realtà con questo carico storico dietro, e direi con questa capacità di ripresentarsi puntualmente, come mette in rilievo per esempio l'ultima parte, quando si rifà l'esperienza sotto il nazismo, eccetera, quindi anche sotto il fascismo, quella sotto il nazismo sappiamo più acuta, di ripresentarsi nei momenti drammatici, nei momenti più tragici della storia, siccome tanto che studio della storia ci riconfronti con momenti drammatici, anzi forse per tanti versi questo è uno di quelli, anche se non nel nostro paese non dobbiamo citare la carica di sangue, ma insomma certamente nel mondo di oggi, nel mondo italiano, non si può dire, ecco, allora può darsi che questo ci confronti con meditazioni e riflessioni che anche apparendo in qualche modo intemporali sono invece a livello più profondo cariche di grande valore per noi oggi. E direi che lui è consapevole di questo innanzitutto metodologicamente, perché appunto ha voluto farne un'indagine di storia costituzionale in senso forte, in senso di cui in questo ambiente dove ho imparato nel caso di commentare ulteriormente, e quindi un balzo solo con questo tipo di impostazione supera quell'angustia che poi tutti sentiamo nella trattazione del tema dei positivisti, dei giuristi positivi di oggi, dove appunto ci si limita poi in fondo a una descrizione, a un'analisi molto formale di questo istituto, che ci si pone un problema, non è rilevante, ma ecco di vederne qual è l'efficacia, l'efficacia rafforzativa, i vincoli, condizione sospensiva o risolutiva rispetto a rapporti che hanno il loro titolo costitutivo in altro, eccetera, e non si riesce ad uscire, forse solo lo studio, non a caso, una studiosa di grande sensibilità come Lorenza Cardassara, ma sempre nell'ambito di un commento all'articolo 41, forse solo lì c'è la fiammata che insomma qui si avverte, anche se anche la Lorenza non qua e là denuncia di essere suggestionata da qualche irrilevanza dell'istituto, da qualche modesta rilevanza dell'istituto, però ecco poi come avviene nelle persone appunto più sensibili, che in realtà le cose che dice sono come dire più scarpe, però ecco la letteratura è chiara per questo, direi abbastanza curiosa che sarebbe, e quindi invece tutt'altro la prospettiva che tema un libro di questo tipo, dove è connesso i grandi problemi costituzionali e diventa veramente il fatto costituzionale fondante per una serie quantomeno di periodi storici e di modalità. Evidente che a questo si riconnette poi in questo senso che accompagna tutta l'opera che Paolo sottolinea fin dall'inizio, che giustamente si è rilevato in maniera profonda la profonda gravità dell'istituto, perché appunto essendo un fatto costituzionale, di storia costituzionale in senso forte, intimamente connesso ai valori importanti di un certo ordinamento, di quello che si presenta, al di là delle quali l'immobilità delle forme o della tendenza sulla ripetitività dei vari temi, si presenta invece con significati, con valori profondamente diversi da epoca a epoca. Ecco, io direi naturalmente io non saprei valutare da di dentro, o apprezzare, anche apprezzare fino in fondo, da di dentro, quello che viene detto nel libro sulle epoche più risalenti, per quali manco di competenza, di sensibilità, insomma, certamente di competenza, e quindi ecco, più che poter percorrere o apprezzare in maniera profonda e critica le singole costruzioni, le singole epoche, io così ne ho tratto dalla lettura soprattutto la percezione di più modelli possibili, una sorta di tipologia che poi forse non la semplifico troppo nella risposta così, ma mi è parso di capire, così, ma insomma mi pare poter dire che qui vedete soprattutto tre modelli, insomma, emergono da questo gruppo storico soprattutto tre modelli: giuramento di sottomissione, diciamo, no? Primo. Sono modelli che vengono a ritornare storicamente, poi chiaro, con modalità specifiche diverse, però in qualche modo a ritornare, perché mi pare che una sorta di giuramento così notabile lo indichi, sempre un modello cenicologico, già siamo in un'epoca lunghissima, poteva diciamo trattare con quale livello di analisi potrebbe, ma dall'Egitto all'età ellenistica, all'impero romano, a Bisanzio, e poi qui determinato evidentemente da un'idea sacrale precisa dell'antichità, ma poi ritorna, deve ritornare naturalmente di questo tipo, di farti capire alla fine del Medioevo, nei principati e nelle monarchie. Si diffida, dice Prodi, del giuramento contratto, la sovranità identica al monopolio del giuramento come strumento del proprio potere, un vero e proprio diritto regale. E però la cosa più interessante forse è che va oltre l'età dell'assolutismo, diciamo, dei principati e delle monarchie, perché una sua forma di incorporazione del cittadino al corpo sociale, alla patria, questa intesa in questa nuova sacralizzazione della politica, viene poi ritrovata in Rousseau, che vedremo sono molto interessanti nel modo della costruzione della Corsica. Presenta tutta la nazione corso, se rilata non se non sono a me, a non se il corpo di chi, con la formula femminile prove del bien, il corpo di bene, di volontà, di tutta la mia potenza, la nazione corsa per appartenermi in tutta la proprietà, me e tutto ciò che si tende da me. Nell'ideologia giacobina c'è una struttura riconducibile a questo modello, e poi evidentemente nello stato totalitario di un Trecento. Il secondo modello è quello del giuramento contratto, che è quello che domina l'età di mezzo, che quindi rappresenta nel libro la struttura indagata con più, no, l'altra, ma insomma con più, come dire, senso di scoperta del suo valore intimamente connesso strumento fondamentale, dice, di quasi di Dio per trasformare il divino nella realtà di fatto, il fondamento ultimo della validità degli atti quotidiani, base con la quale generale. La fedeltà si fonda sul giuramento e assume quindi caratteri sinallarmatici e divenne in questo modo il cardine del rapporto feudale bilaterale. Direi che molto acuta è la spiegazione che viene data di questo modello. È il dualismo cristiano, Cesare Dio, che laicizza la politica a partire perlomeno dalla sua istituzionalizzazione, l'istituzionalizzazione del dualismo. E quindi paradossalmente, dice Paolo Clodio, la frattura, la rottura della sacralità del potere avviene attraverso il controllo del giuramento assunto dalla Chiesa, la quale si assume il potere di giudicare sulla validità del vincolo, di scioglierne quindi anche il nuovo contratto, e di riconoscere nuove sovranità fondate sui patti giurati, ma in questo modo ben lontano dal, come dire, conferire alla politica un'immobilità sacrale, al contrario, presidia una sorta di sfera di libertà. E qui mi pare che la frase che viene riferita di Rosmini, essenzialmente, come dice anche la premessa, una ricerca sulla basso medioevo e sull'età moderna, mentre sia quello precedente sia l'età contemporanea sono ovviamente gli sfondi storici maggiori, se non si sarebbe bene, però ecco, quando compare invece poi sul mio lavoro, soprattutto nella premessa e nelle conclusioni, una sorta, non dico di nostalgia per il modello numero 2, perché insomma anche fuori delle condizioni storiche, d'arte, è difficile prospettare un ritorno, però è una così profonda condizione del valore che ha avuto storicamente, del valore di liberazione, di storica di garanzia, che ha avuto storicamente il modello del giuramento contratto inserito nel turismo cristiano di cui si parlava, che Paolo finisce col condividere, almeno con due espressioni, condivide quella sorta di condanna all'irrilevanza o al declino che c'è attraverso i giuristi e il senso comune, dicendo, attestano della realtà attuale dell'ordinamento di oggi. Ma forse questo non rende interamente ragione di due cose, secondo me, su questo momento determinato. E uno, intanto, del perché avvenga questo, del perché c'è il giuramento così si riduca. Non è soltanto il problema della secolarizzazione, certamente, però, e questo lo si vede confrontandolo invece con la ben diversa e pericolosa pregnanza dell'altro modello, che uno ha anche nelle democrazie totalitarie, nei neototalitarismi, la ragione più positiva non sta tanto nella secolarizzazione, pure la compagna si fece con tutto questo, ma nel fatto che diverso è il fondamento delle cariche. Adesso lasciamo stare il problema del fondamento ultimo dell'obbligazione politica dello Stato e se ipotesi neo-contrattualiste siano possibili ripresentare per attuare. Ma lasciando stare questo, è sicuro che poi all'interno dell'ordinamento politico dato c'è una pregnanza della Costituzione della legge, cioè della norma tale, che non ha senso pensare a un fatto invece del tipo giuramento come titolo fondativo degli obblighi. Gli obblighi hanno gli obblighi delle cariche, la stessa carica e i suoi obblighi hanno il fondamento puntuale ed esauriente nella legge e sopra la legge della Costituzione, e quindi non hanno bisogno di trovare altro per essere pienamente giustificato. E allora perché rimane il giuramento? Rimane il giuramento. E qui forse va detto con più forza di quella che usano in genere i giuristi di diritto positivo, i quali tutti sono consapevoli che nel giuramento c'è un appello a valori morali condivisi, c'è un voler rafforzare l'obbligo della carica in nome di che? In nome dell'appello a qualcosa che è metafisico, che non è più sacrale, non è più religioso. Condiviso degli ordinamenti attuali, che non può essere casomai, ma è più interessante che sia esercistico del tema, che non ha detto per noi in particolare interessa almeno in questa sede, può darsi che per alcuni conservi l'abbia, ma questi valori religiosi, se ci fossero per alcuni, sarebbero, come dire, percepiti come una modalità o ritrovati all'interno di un più generale e più condivisibile dall'intera collettività. Attività, fondamento morale. E allora, però, il mantenimento del giuramento in questo senso è una spia significativa, cioè direi che vanno respinte quegli eccessi di svalutazione che si trovano nella letteratura e poi sono quelli che fanno la base della soppressione, che qualche volta ancora viene chiesta o che comunque viene chiesta per alcune cariche, è stata realizzata per alcune cariche. Cioè l'idea che non serve a nulla dare un fondamento che sia ulteriore rispetto a quello positivo. Questo non è vero, anche nell'epoca dello Stato costituzionale, dello Stato in gran parte legislativo, è fondamentale che si abbia la percezione come il diritto non è e non può essere, neanche in quest'epoca, autoreferenziale, puramente positivo. La sua validità si richiama pur sempre a qualcosa d'altro, a una concezione antropologica che sta sotto, quindi a dei valori morali fondanti, e allora il giuramento diventa la spia, se volete modesta, di qualcosa che verrà in modo generale. Ecco perché dico che forse si potrebbe appunto sviluppare questo aspetto e quindi uscire dall'idea che il giuramento laico non abbia in definitiva nessuna particolare rilevanza, se si percepisce che non è che la spia forse sia limitata, episodica, però non tanto, perché è relativa poi alle cariche che possono dare col potere una maggiore possibilità di violare la Costituzione, le leggi e quei valori fondanti dell'ordinamento democratico attuale. E allora se viviamo tutto questo sfondo, forse il giuramento ha una sua importanza e ci richiama a qualche cosa di più generale. Ci richiama cioè al fatto che la positività degli ordinamenti attuali non può fondarsi su se stessa, che c'è qualche cosa che sta al di là, che soltanto si recupera un più ampio significato, un più ampio valore, si garantisce come esigenza effettiva, e allora se lo colloquiamo su questo sfondo, se cioè crediamo che, e allora percepiamo anche una serie di altre cose, allora non è solo il giuramento, ma allora certi principi che stanno nella Costituzione, principi di eguaglianza, di imparzialità, di dignità umana, di imparzialità delle funzioni, di dovere di fedeltà dell'articolo 54, cioè, assumono ben altro peso e il giuramento si colloca lì. Allora il giuramento diventa semplicemente il tentativo di richiamare i titolari delle cariche, soprattutto delle cariche discrezionali, delle più alte e discrezionali. Su questo ci sono indicazioni frequenti e direi che tutto condivisibili. Cioè è tanto più importante che sia chiamato, non è importante che forse possono essere esentati da sede di funzionari statali del giuramento, funzionari statali minori. C'è tutta una proposta di riordino che fa Ferrari nell'enciclopedia, che fa no, l'ultima edizione del 4 di gesto. Fa tutta una proposta di riordino del giuramento per metterlo per alcuni soggetti che non l'hanno, per esempio i consiglieri regionali e i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, e toglierlo ad alcuni livelli, per esempio i funzionari statali non del livello di ricerca. E questo ha un senso, che cosa? Il fatto che il giuramento è importante laddove non fonda dei doveri a sé, però richiama da spessore, individua, consente di meglio individuare una serie di doveri generali che dai valori dell'ordinamento e dall'adesione che si richiedono si possono già estrarre. Allora forse, collocato in questa maniera, una serie di collegamenti, adesso non c'è il tempo di sviluppare, attenzione nel modo come si potrebbe, ecco, forse allora non dobbiamo sentire insofferenza per l'istituto né senso del suo declino, della sua irrilevanza. Può darsi che proprio in momenti di crisi, attraverso questa sua pregnanza, possa vedere ancora una funzione. Grazie.